programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed entro così pomposamente, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in questa puntata che già, insomma, da queste note, io spero ai più familiari, insomma, dovrebbe suggerirvi un po' l'argomento, naturalmente qualcosa di patriottico, diciamo così, e anche un po' complesso. Mi sono imbarcata, ho deciso per questa puntata speciale, del resto anche in un giorno speciale, una puntata monografica su un argomento difficilissimo, ma con egregi ospiti che vi presenterò tra poco dovremo cercare di riuscire a portarlo più o meno a termine, almeno dare qualche spunto. Qual è l'identità degli italiani oggi? Ormai dobbiamo celebriamo questi 150 anni dall'Unità d'Italia, dal 1861, già da tempo si fanno polemiche, discussioni, difficoltà e tira e molla qui e là. Insomma, a questo punto diciamoci, ma chi siamo noi italiani? Fra l'altro diciamo che nelle ultime settimane si sono un po' sprecati anche le descrizioni, l'identikit, soprattutto sulla scia delle ultime vicende politiche, no? Anche degli scandali, molti editorialisti, opinionisti, pensatori eccetera eccetera si sono messi un po' a raccontare qual è la loro visione degli italiani e come forse soprattutto una classe dirigente, una classe politica ci può rappresentare. Man mano poi vi citerò insomma qualche frase qua e là, qualche ritratto, però la cosa interessante è che appunto siamo ai 150 anni dell'Unità d'Italia, vedremo un po' man mano come verrà celebrata e con quale anche dignità e intensità, insomma, speriamo. Però nel 1964, quindi un po' di anni fa, Luigi Barzini ebbe un incarico da un editore americano di raccontare l'identità italiana, il carattere nazionale dell'italiano e degli italiani al mondo anglosassone. Era un tentativo proprio di spiegare la nostra identità al mondo anglosassone. Scrisse gli italiani, Italians, e quelli... 1964, dicevo, erano gli anni del boom economico, della nostra democrazia che si andava consolidando, dove il nostro cinema, ma la moda, il design, eccetera, dettavano leggi, la letteratura, il teatro, persino le automobili. Ma se dovesse oggi uno come Luigi Barzini scrivere un libro su come sono gli italiani, chi siamo, come descriverli, per esempio, anche all'estero, al di là dei titoli, delle cose, insomma, che raccontano i giornali stranieri, cosa farebbe? Cosa scriverebbe? Cosa scrivereste voi, ma soprattutto tutto gli ospiti che sto per presentare. Attenzione, signore e signori. Ed ecco noi Aldo Cazzullo. Caro Aldo. Buongiorno. Sembra molto vicino perché col cuore lo è all'Italia ovviamente, ma è sempre in giro per il mondo, inviato speciale del Corriere della Sera. Chi lo ferma? Forse a volte serve un po' anche distanziarsi dalle cose per vederle meglio, no? Come succede nell'ipermetropia, nella presbiopia eccetera. Aldo Cazzullo, che oltre alle vicende nazionali ha seguito vari eventi internazionali, tra cui le elezioni recenti di metà mandato negli Stati Uniti e poi i mondiali di Sudafrica e mille altre cose, fra l'altro ha scritto come ultimo libro Viva l'Italia, guarda proprio in tema. E poi c'è Luca Ricolfi. Luca, ciao Luca Ricolfi è sociologo, saggista, insegna analisi dei dati all'Università di Torino. Fra gli ultimi libri ci sono due titoli emblematici: Illusioni italiche, capire il paese in cui viviamo senza dar rete ai luoghi comuni, e Il sacco del nord, che ha molto a che fare con insomma queste spinte centrifughe, centripete, l'unità in qualche modo d'Italia, che sapete che comunque è un po' messa da tempo in discussione. Poi c'è Carmen Leccardi. Sì, buongiorno. Ciao Carmen, docente di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca, con delega per le problematiche di genere e le pari opportunità. Giuseppe Roma. Salve a te Giuseppe. Salve. Benvenuto, che è direttore generale del Censis, il centro studi investimenti sociali, che ogni poco, da circa 50 anni o poco meno, continua a monitorare la situazione sociale e economica dell'Italia, a fare un ritratto di noi, quindi chi meglio anche di lui. Oliviero Bea, benvenuto Oliviero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornalista, scrittore, saggista, autore teatrale, conduttore televisivo e radiofonico. Tra gli ultimi libri, l'ultimo titolo è Dopo di lui il diluvio, e si riferisce chiaramente a lui, il Presidente del Consiglio, a Berlusconi, e quindi a un'Italia anche che è in un'epoca, epopea, come vogliamo chiamarla, di questo tipo, del berlusconismo. C'è Valeria Della Valle, sì, affezionatissima, ecco, di Non ci sono più le mezze stagioni. Ciao Valeria, che è docente di linguistica italiana all'Università La Sapienza di Roma. Bene, io direi di iniziare, col permesso degli altri ospiti, subito da Aldo Cazzullo, che dicevamo, girovago per il mondo, può stare solo alcuni minuti iniziali. Aldo, che dicevamo, hai scritto questo libro molto molto in tema, Viva l'Italia, risorgimento e resistenza, perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra nazione, pubblicato da Mondadori, con una bella prefazione di Francesco De Gregori, fra l'altro. Quindi tu parti un po' dalle nostre origini, effettivamente, come unità nazionale, no? Anche se dici nella quarta di copertina, talora parliamo dell'Italia come se non fosse una cosa seria e ci pare impossibile che siano esistiti uomini e donne, e ti ringrazio per aver messo anche donne, insomma non solo politicamente corretto ma è assolutamente giusto, per cui l'Italia era un ideale che valeva la vita e per cui viva l'Italia furono le ultime parole. Sì, la mia impressione è che sia il Risorgimento sia la Resistenza siano poco conosciute e molto denigrate. Il Risorgimento è considerato una cosa da liberali, quattro gatti appunto, mentre non è così, è anche il popolo a fare il Risorgimento. Nel 1848 insorgono tutte le città italiane, da Messina a Venezia, da Napoli a Milano, ma soprattutto non è il Risorgimento a fare l'Italia, è l'Italia a fare il Risorgimento. In un paese diviso, con le polizie che braccavano i patrioti, nasce questo grande movimento politico e culturale che infiamma artisti come Manzoni, come Verdi, che fa discutere pensatori come Gioberti, Mazzini, Cattaneo, Rosmini. È una pagina di cui dobbiamo essere orgogliosi, mentre invece vedo che il Risorgimento, come anche la Resistenza, è molto sotto attacco. È sotto attacco al Nord per opera della Lega e non soltanto della Lega. Al Nord molte persone cominciano a pensare che il Sud sia una sorta di palla al piede. Di zavorra. Mentre al Sud sta nascendo un rancore speculare di persone convinte che il Sud sia Sud perché il Nord lo ha conquistato e depredato. Ci può essere un fondo di verità dietro queste varie tesi, il problema è che così non andiamo da nessuna parte, mettiamo in pericolo questa grande conquista che è stata l'unificazione nazionale. Senti, vista dall'estero, tu hai frequentato anche molto gli Stati Uniti oltre al resto del mondo, com'è l'Italia? Quando ti allontani che cosa vedi? Forse si vedono meglio gli italiani per quel che sono. Ma l'Italia all'estero è considerata una terra promessa, un luogo straordinario. Ovunque dici che sei italiano ti sorridono. Tu prima citavi il Sudafrica, dove ho seguito il mondiale di calcio. È un paese emergente, come mi ricordo 2 anni prima in Cina, alle Olimpiadi. Ovunque nomi scritti in italiano, persone che vorrebbero sapere di più dell'Italia, che vorrebbero vestirsi come noi, mangiare i nostri cibi, bere i nostri vini, adottare quello che loro considerano lo stile italiano. Il problema è che questa domanda di Italia molto spesso non è soddisfatta da prodotti italiani o da lavoro italiano. Ci sono molti prodotti Italian Sounding, che suonano italiani ma italiani non sono. E la mia impressione è che noi italiani non siamo consapevoli della grande opportunità che il mondo globale ci dà. Il mondo globale ci fa paura, ma in realtà è anche una grande occasione, proprio perché c'è questa grande domanda di Italia da soddisfare. Se solo fossimo capaci di organizzarci meglio, di fare squadra, di fare gruppo, le piccole aziende di organizzarsi per abbattere i costi e continuare a portare di più ancora i nostri prodotti in giro per il mondo, beh, davvero ci renderemo conto come l'Italia sia anche, tra le altre cose, un marchio, un brand, come si dice adesso, che funziona. L'Italia è questo, ma è molto di più. Non è soltanto il bel paese. Questa è una cosa che a me dà molto fastidio. Quando sento parlare male dell'Italia, poi si conclude dicendo beh sì, però in fondo è il paese più bello del mondo. Certo che lo è, però deve essere uno sprone, un punto da cui ripartire e non una consolazione. L'Italia non sarà mai un paese grande, però non è neanche soltanto il bel paese, è un grande paese di cui possiamo essere orgogliosi, anche se dobbiamo raccontare le pagine nere del nostro passato e purtroppo anche del nostro presente. Senti, mi veniva un po' da sorridere, lo dico anche agli altri ospiti, perché negli ultimi tempi ho visto che è uscito anche questo libro Storia d'Italia attraverso il pomodoro, dico ma quasi mi metto a raccontare attraverso il pomodoro, pizza, pasta e così via, di Davide Gentilcore, però ovviamente l'Italia è altro, a parte appunto il Made in Italy a più alti livelli del pomodoro, però come sono cambiate le cose, no? Quindi Aldo Cazzullo ci faceva questo breve excursus sull'Italia che è arrivata poi l'unità col Risorgimento e poi dopo la Resistenza nel secondo dopoguerra. Quanti cambiamenti ci sono stati però poi, no, dagli anni 50, 60, dal boom economico, da un punto di vista culturale, sociale, nel rapporto tra donna e uomo, quindi la donna che man mano, anche se c'è una forte ancora marca maschilista, diciamo, in Italia, quanto è cambiato comunque il ruolo della donna nella società, in parte nella famiglia, si fanno molti meno figli, ci sono molti più divorzi, il rapporto tra le generazioni, la classe politica degli ultimi anni, il mercato del lavoro che è molto molto cambiato, il fenomeno dell'immigrazione. L'ultimo rapporto della Caritas parlava di 5 milioni di extracomunitari regolari, stranieri regolari in Italia, il rapporto Nord-Sud, la lingua, la TV, è vero che ci ha forgiati. Però Aldo Cazzullo, prima di lasciarci, perché appunto poi devi continuare il tuo giro per il mondo, ti volevo sottoporre un fra gli ultimi editoriali degli ultimi tempi, uno di Eugenio Scalfari, no? Sempre a proposito degli scandali della politica, diceva: il nostro Presidente del Consiglio ci rappresenta per molti aspetti, rappresenta il prototipo di vizi italiani, latenti nel carattere nazionale insieme alle virtù che certamente non mancano. Dice Scalfari: siamo laboriosi, pazienti, adattabili, ospitali, ma anche furbi, vittimisti, millantatori, anarcoidi, insofferenti alle regole, commedianti. Egoismo e generosità si fronteggiano, e così pure trasformismo e coerenza, disprezzo delle istituzioni e sentimenti di patriottismo. Come chiuseresti tu questo commento di Scalfari, Aldo? Ma io credo che abbia ragione. Io penso che gli italiani si assomiglino tra di loro più di quanto loro stessi pensino. Certo, tra nord e sud ci sono grandi differenze di reddito, di opportunità, di infrastrutture, ma la mentalità e la natura in fondo sono comuni. La vecchia frase di Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, è una frase ormai superata. Gli italiani ormai ci sono, forse non sono venuti granché, ma sono gli unici italiani che abbiamo e non possiamo averne altri, possiamo migliorare un pochino alla volta. La scommessa sulla base della quale ho scritto Viva l'Italia, il nuovo libro, è proprio questa, che in fondo gli italiani siano affezionati alla loro storia e al loro paese più di quanto anche qui loro stessi pensino. È successo del libro, tutto sommato me lo conferma. Bene, allora continua, speriamo il successo e te lo auguriamo, Aldo Cazzullo, con Viva l'Italia. Buona tournée in giro per il mondo, grazie Aldo Cazzullo. Luca Ricolfi, aggiungo a quello che diceva Scalfari in un editoriale appunto di un mese fa o qualche settimana fa, insomma, aggiungeva che c'è stato negli ultimi 20-30 anni proprio un vero e proprio processo di diseducazione di massa, che lui imputa anche molto, insomma, appunto all'epoca del berlusconismo, alla TV commerciale, dice, avvalendosi questa diseducazione di massa delle moderne tecnologie della comunicazione, della TV, deturpando la mentalità delle persone e il funzionamento delle istituzioni. Secondo te questa decadenza che molti così sottolineano da più parti è reale, Luca Ricolfi? Ma assolutamente sì, direi proprio che c'è. Però il punto è che questa decadenza è un fenomeno che non c'è solo in Italia e non risale a 16 anni fa, è un fenomeno che è iniziato 30-35 anni fa, che si è svolto in tutto il mondo occidentale e in Italia ha assunto qualche tratto peculiare perché siamo italiani, perché c'è la figura di Berlusconi, eccetera, però non è una peculiarità dell'Italia, a mio parere. Pensiamo all'aspetto più importante, cioè al deterioramento delle istituzioni, cioè i rapporti che ci sono fra i politici e i cittadini, fra i telespettatori e le emittenti, tra i genitori e i figli, tra i maestri e gli allievi, tra i lavoratori e i loro capi, cioè tutti questi rapporti sono cambiati e sono cambiati nella stessa direzione, cioè non c'è più il rispetto per le istituzioni, e questo è un fenomeno però di tutto il mondo occidentale, non è un fenomeno specifico dell'Italia. Bene, quindi Luca Ricolfi, in questo paragone che fa con gli altri stati, un po' come dire malcomune mezzo gaudio, non è l'intenzione di Luca Ricolfi, ma per dire insomma che paragonandoci anche al resto del mondo, almeno al mondo occidentale, è un fenomeno questo un po' del decadimento, dell'imbarbarimento, del poco rispetto per le istituzioni, abbastanza generale. Puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, Roberta Giordano sempre con voi, una puntata monografica che appunto voglio dedicare all'identità nazionale, al carattere nazionale. Chi siamo noi oggi? Abbiamo parlato con gli ospiti, intanto con Aldo Cazzullo, inviato speciale del Corriere della Sera, che ci ha lasciati perché appunto era molto lontano all'estero, Luca Ricolfi, sociologo saggista che insegna analisi dei dati all'Università di Torino, e poi ci sono Carmen Leccardi, docente di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca, Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, Olivier Robea, giornalista e scrittore, e Valeria Della Valle, docente di linguistica italiana all'Università La Sapienza di Roma. Quindi abbiamo così provato un pochino a cercare un identikit attuale e contemporaneo degli italiani. Citavo anche Eugenio Scalfari, col quale Luca Ricolfi in buona parte era d'accordo. Olivier Robea, volevi intervenire su quanto diceva Aldo Cazzullo sugli italiani. Sì, perché l'unica cosa su cui sono d'accordo con Cazzullo è il discorso sul Made in Italy, ma fatto in un altro modo. Cioè, lui ne parlava degli italiani in un certo modo come se esistessero. No, gli italiani, in quanto italiani, in quanto dotati di un'identità nazionale, secondo me non esistono. Mm. Non esistono o non esistono più, per meglio dire. Esistono dei posti italiani, esiste un popolo con un'identità stinta, culturalmente regredito, regressivo, che però ha effettivamente nel brand del Made in Italy un qualche cosa che lo rende riconoscibile. Siamo al paradosso di un paese, di un popolo senza identità, ma che trova la sua identità nel brand del Made in Italy. Il piccolo particolare è che gli italiani non vivono secondo il Made in Italy, vivono secondo il Made in Italy gli stranieri in Italia o gli stranieri all'estero che lo apprezzano, gli italiani che all'estero hanno questa nostalgia del Made in Italy, ma gli italiani non più. Quanto al discorso di Scalfari, sì, è vero, poi ognuno dovrebbe domandarsi quanto è italiano. Io per esempio mi sento più vicino a Gaber che a Scalfari, con le sue giaculatorie io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono, che immagino ricorderete. Il problema forte è che questo, in questo senso Ricolfi è prezioso, perché parlando di decadenza generalizzata dell'Occidente, adesso sintetizzo per motivi diciamo radiotelefonici, sì, sei molto ha bravo. Ragione naturalmente, c'è un piccolo particolare, che l'Italia è l'unico paese nel secondo dopoguerra che in stato di grave arretratezza in una generazione forse meno ha trasformato il suo DNA da contadino in industriale. L'altro paese al mondo che ha un passaggio di questo genere, come forse immagino tutti sappiano, è stato il Giappone, con altre caratteristiche in un'altra zona del mondo. Per rimanere all'Italia, l'Italia è riuscita a stancarsi abbastanza in questa generazione che negli anni 50-60 ha trasformato il paese, per essere adesso un paese vecchio, stanco, senza idealità, senza lavoro e senza cultura. Naturalmente ha dei giovani che poi, come dire, non ci vogliono stare, non abbozzano, i giovani migliori o comunque i giovani giovani in quanto biologicamente resistenti e resistenziali, ma la massa del paese in questo senso è berlusconiana, non è che lo sia perché di destra e di sinistra, sono distinzioni oggi superate, sono post italiani, senza identità, non hanno memoria perché non gli fanno avere memoria, perché il meccanismo della comunicazione riferito alle tecnologie di cui avete già accennato, magari sia pure frettolosamente, funziona perfettamente nell'azzerare la memoria. La memoria è l'unica produttrice identità che si conosca. Se uno non ha memoria, non sa chi è stato, come fa a sapere chi è? E uno che non sappia chi è, che programmi volete che faccia per il futuro? Quindi in questo filone diacronico l'italiano si è svuotato di se stesso. Quindi in questo senso l'Unità d'Italia, come dire, è una sorta di, posso dire, di pièce teatrale. Guarda intanto Olivier Robea, Pietro La Corte, la parte tecnica, cosa ti ha trovato, eh? Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Ecco, come si diceva, insomma, chiedo a Giuseppe Roma. Giuseppe, se condividi questa visione piuttosto fosca di Oliviero Beo, perlomeno, insomma, diversa sicuramente da quella di Cazzullo, in parte vicina a Luca Ricolfi, però diciamo affine a quella di Gaber, come diceva Oliviero Beo, per esempio, che è un paese vecchio e stanco. Ora, anagraficamente si dice che, appunto, essendoci poche nascite, è un paese che invecchia. Forse Oliviero Beo lo voleva dire anche proprio in senso così, come se fosse un po' logorato, consumato, con poca voglia di guardare alle prospettive, al futuro, con poche energie. Che dici, Giuseppe Roma? Io dico soprattutto che parliamo tanto di identità, ma è una delle poche cose che forse in questo momento ci mancano, nel senso che noi tutti interpretiamo questo paese come Gaber, cioè nessuno si sente italiano, però alla fine siamo tutti italiani, abbiamo tanti difetti e tanti pregi che ci hanno tutti gli italiani. Quindi credo che intanto il punto di vista deve essere un punto di vista un po' più distaccato. Che cos'è l'Italia? Poi quella del Made in Italy o quella che sta, come io penso, un po' franando e scivolando? È un grande paese che ha fatto della soggettività individuale la sua cifra e che poi è diventata la capacità della famiglia di tenere insieme alcuni valori di riferimento anche molto pratici. La famiglia italiana poi ha retto anche nella crisi, e che oggi vediamo invece valori che traballano, perché il senso di solidarietà, il senso di risparmio, di sobrietà che c'era nella famiglia italiana che ha fatto lo sviluppo, via via ce lo siamo un po' perso. Poi c'è il territorio, le città italiane, quelle piccole e grandi dove tanti stranieri vengono ad abitare perché c'è un'altissima qualità della vita, un paesaggio straordinario, ma anche questo territorio è diventato un oggetto di conflitto, un oggetto di egoismi, un oggetto in cui alla fine non ci riconosciamo più, se non per difendere qualcosa e non magari per integrare chi viene da fuori e quindi ci propone delle cose nuove. E la terza identità è la nostra capacità di essere attivi, di fare impresa, di creare qualcosa, e anche qui noi vediamo che ci troviamo di fronte a un mondo globale nel quale alcune furbizie non sono più, non hanno più cittadinanza, e in cui anche chi fa l'impresa, perché chiunque oggi, chiunque di noi incontra degli italiani all'estero, vede che sono diversi dagli italiani che stanno in Italia, perché l'imprenditore che sta in Cina, l'imprenditore che combatte la concorrenza sul mercato mondiale, è difficile che possa fare il nero, che possa farsi aiutare da un emendamento corporativo di qualche legge, eccetera. Quindi oggi noi veramente viviamo una forte crisi di identità, perché non sappiamo a cosa riferirci. È giusto tutto quello che stavo detto, è giusto questa Italia così ammirata all'estero, che però molto spesso non è seguita dagli italiani, perché sappiamo, non so, in tanti paesi che c'è tanta Italia ma non ci sono gli italiani che poi mettono a frutto questa immagine. Quindi è un'immagine che gradatamente ci viene anche mangiata da altri, che noi non sappiamo gestire. Quindi noi siamo comunque un'identità in crisi. La possiamo vedere scalfarianamente sempre fustigando i costumi, però poi siamo proprio un paese che rischia di franare, come un po' il territorio, come succede idrogeologicamente, per le alluvioni, che rischia un po' di franare perché ha perso un po' la spinta e la dinamica con la quale negli anni passati, soprattutto negli anni 50 e 60, poi i vizi sono passati in secondo piano e invece sono venute fuori le nostre virtù. Adesso, con tutti i problemi che ci sono, e sono problemi non risolubili come abbiamo fatto in passato, col nostro spontaneismo, col nostro saper fare, qui ci vuole più intelligenza, più competenza, bisogna sapere più le cose, non si può fare le scorciatoie, e vediamo invece crescere un'Italia in cui manca autorevolezza sia nelle classi dirigenti sia nelle istituzioni, in cui ai giovani si danno messaggi non del tutto positivi. Io credo, per esempio, la famiglia molto spesso oggi non è in grado di orientare i giovani dal punto di vista dei comportamenti, e certo poi con tutto quello che ne consegue, viviamo in un mondo aperto alla comunicazione e ai media, e quindi un paese che io credo che abbia oggi delle fragilità, e per cui ancora siamo ammirati per il Made in Italy, ma per esempio il Made in Italy non basta più. È evidente che oggi noi non possiamo solo vivere di Made in Italy, ma dobbiamo espanderci anche su altri comparti, per esempio. Sappiamo che il 70% della nostra economia è terziaria, e che il nostro terziario è quello che non dà lavoro ai nostri, ai giovani laureati. Quindi i problemi che si pongono oggi, io direi che dovremmo affrontarli togliendo di mezzo la retorica. Io penso che la retorica della resistenza, la retorica del risorgimento, la che bandiera, però come memoria non ci danno. Fanno bene da ricordare, no? Perché si diceva senza memoria non ci servono. Non c'è sinceramente io sono naturalmente molto affezionato per generazioni alla resistenza e al risorgimento, ma non è con la formalità dello stare insieme, e qui è la necessità di spiegare meglio e di più cosa siamo, quali sono le nostre identità e quali sono i nostri problemi. Invece non le spiega nessuno, perché il dibattito poi è un dibattito che resta superficiale, è sempre molto conflittuale, è sempre fatto di posizioni che vogliono sopravanzare quella degli altri, e quindi quest'Italia non la capiamo più. Questo io credo che sia il problema principale. Noi la dobbiamo spiegare prima di tutto. Poi possiamo certamente riferirci all'unità, ai valori antichi, però capire un po' chi siamo oggi e cosa vogliamo. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Ecco, Toto Cutugno, 1983, se non sbaglio, un po' di anni fa, aveva in mente che cosa fosse un italiano. Adesso lo stiamo cercando di capire in questa puntata speciale, puntata monografica. Roberta Giordano sempre con voi, e poi vi riassumerò, se vi siete messi in ascolto in questo momento, anche gli ospiti di questa puntata. Dicevo, stiamo cercando di descrivere un'identità nazionale, contemporanea. Oggi, chi sono le italiane e gli italiani? Esiste una identità che caratterizzi il popolo italiano? Citavo all'inizio Italians, italiani di Luigi Barzini nel 1964, che cercava di spiegare appunto il carattere nazionale, l'italianità ai paesi anglosassoni. Oggi abbiamo questa esigenza ed è una cosa che si riesce a fare. Ci stiamo tentando, dicevamo, con Aldo Cazzullo, inviato speciale del Corriere della Sera, che abbiamo salutato poco fa, con il sociologo Luca Ricolfi, con il direttore generale del Censis Giuseppe Roma, con Carmel Cardi, che è docente di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca, con Oliviero Bea, giornalista e scrittore, con Valeria Della Valle, docente di linguistica italiana all'Università La Sapienza di Roma. Carmen, quindi ci eravamo lasciato un po' dicendo, ma insomma, almeno per quanto riguarda le donne, nei cambiamenti, almeno dal dopoguerra a oggi, dei progressi ci sono stati. Qualcuno però dice, con gli ultimi scandali, con un certo modo di vedere, di vivere le cose e di messaggi che arrivano dalla televisione, non solo, anche dalla classe politica, forse si rischiano dei passi indietro. Che cosa dici, Carmen? Ma guarda, direi che possiamo sempre prendere gli anni 60 come punto di riferimento, e se guardiamo per esempio a quel che accadeva ancora nel 65 con il rapimento di Franca Viola, sì, e con una situazione in cui si prevedeva ancora all'epoca il matrimonio riparatore, no? Tra la vittima e il violentatore estinguesse il reato di violenza sessuale, quindi in qualche modo riparasse l'offesa arrecata all'onore del capofamiglia. E se guardiamo alla reazione di questa giovane ragazza che decide di rispondere alla violenza che subisce con una grandissima forza, con il supporto anche della sua famiglia, e rifiuta questo matrimonio cosiddetto riparatore, ebbene, abbiamo secondo me un spaccato di come l'Italia in realtà stia dentro, nonostante tutte le sue drammatiche vicende, in particolare l'assenza, potremmo dire in grande sintesi, di una vera e propria classe dirigente, stia dentro i cambiamenti che la società europea conosce nel secondo dopoguerra in particolare. Mi riferisco in specifico al fatto che la morale sessuale, per esempio, cambia, cade, viene meno l'idea del doppio standard, della morale sessuale, uno standard per le donne, uno standard per gli uomini, le donne tutto. Iniziano a diventare protagoniste delle loro scelte esistenziali, iniziano a far sentire la loro voce attraverso una sempre maggiore presenza nel mondo della formazione superiore e poi nel mercato del lavoro. Sappiamo bene come siamo ancora lontani, per esempio, dagli obiettivi che erano stati dati a Lisbona dal punto di vista della presenza delle donne nel mercato del lavoro. Ma nonostante questo, ecco, io vorrei spezzare una lancia, sì, parlando delle donne italiane, a favore della loro forza e della loro integrità. Nonostante questa crisi identitaria nazionale, potremmo dire, che è stata evocata negli interventi che mi hanno preceduto, io vedo invece questa grandissima voglia delle donne italiane di esprimere le capacità e le competenze che sono andate acquisendo in questi anni, che negli anni 70, come sappiamo, poi sono state supportate da una serie di diritti fondamentali, dal diritto al divorzio, all'aborto, il nuovo diritto di famiglia e così via, e che oggi per certi versi sono mortificate da uno strisciante machismo di ritorno, per così dire, che cerca di bloccare le conquiste che le donne italiane sono andate accumulando in questi anni e che le pongono, secondo me, dal punto di vista poi delle loro consapevolezze soggettive, da tutti i punti di vista allo stesso livello delle altre donne europee, solo che vivono all'interno di contraddizioni. Pensiamo soltanto all'incredibile blocco della rappresentanza politica delle, certo, donne italiane, o al livello delle pari opportunità, per l'appunto, che le pone in una posizione di fanalino di coda a livello mondiale, non europeo. Ecco, nonostante questo, io vedo le trasformazioni delle donne come trasformazioni che vanno in direzione di un'identità sempre più vissuta da protagoniste. Questo è il mio punto di vista. Bene, meno male, almeno in questo senso, anche se appunto giustamente diceva Carmen Leccardi, parlava di questo strisciante machismo di ritorno verso il quale bisogna sempre essere piuttosto vigili. Valeria Della Valle, dal punto di vista della lingua, prima citavamo fra gli altri appunto Scalfari, che diceva negli ultimi 30 anni c'è stato un processo di diseducazione di massa, soprattutto attraverso la TV commerciale e tutto ciò che le sta intorno. Per quanto riguarda la lingua, secondo te invece è stata unificante, a parte certamente, no? dopo l'unità d'Italia, adesso vive a sua volta un momento di decadenza o cosa? Ma no, non mi sentirei di parlare addirittura di un momento di decadenza. Se tutto quello che ho ascoltato è in gran parte certamente condivisibile, un paese vecchio, un paese stanco, un paese fragile, un'identità in crisi, un paese che rischia di franare, mi sono segnata un po' le frasi che mi hanno colpito, certo, di più, nello stesso tempo, dalla mia ottica, che è quella forse più limitata, dell'attenzione allo stato di salute della lingua italiana, ecco, non posso condividere in tutto la visione pessimistica. Per quale motivo? Ma perché io credo che sia proprio la lingua oggi, in questo momento di confusione generale, a costituire, nonostante quello che se ne dice, a costituire in fondo il vincolo condiviso da tutti. Ho aggiunto nonostante quello che se ne dice, perché della lingua italiana si dice tutto il male possibile, che nessuno la sa più usare, che è in stato di grave decadenza. Ma lasciando queste posizioni un po' ai catastrofisti, io invece tendo a vedere i fattori positivi. Il percorso della storia della nostra lingua è stato complesso, accidentato, difficile. Siamo arrivati a condividere una stessa lingua molto più tardi di altre nazioni. Ci siamo arrivati anche, tutti lo riconoscono, grazie alla televisione, che invece oggi spesso accusiamo di essere l'elemento disgregatore della lingua. Ecco, mi sembrano sempre posizioni un po' eccessive, dobbiamo vedere le cose forse con un po' più di distanza, e io dal mio punto di vista vedo tutti gli aspetti positivi di una nazione, perché nazione siamo, che in fondo tutto sommato si riconosce almeno in questo, nel fatto di condividere questa stessa lingua. Poi è vero che ci sono a volte tendenze, come posso dire, non dico distruttive, ma insomma alternative, che per esempio vogliono proporre il dialetto in opposizione alla lingua nazionale, però io credo che forse non dobbiamo neppure drammatizzare questi episodi, che più delle volte sono voluti per destare un certo rumore intorno a chi fa questi proclami, ma per il resto questa osservazione, una lingua che condividiamo e la condividiamo non da moltissimi anni, penso che sia il fattore intorno al quale tutti una volta tanto ci sentiamo italiani, e questo forse ne abbiamo, ecco, riprendendo Cazzullo, lontano dall'Italia, questo lo avvertiamo ancora di più quando ci allontaniamo dai nostri confini, e a questo punto quando incontriamo chi è lontano dall'Italia da tanto tempo, che sia calabrese o veneto o milanese o toscano, beh, alla fine parliamo tutti la stessa lingua. E adesso dico una cosa un po' così vecchio stile. Insomma, in fondo ci commuoviamo, riconosciamolo, a sentire quella che è poi è la lingua di Dante. Chiudo dicendo, facendo un'altra constatazione. Sì. Se oggi le letture, ecco, torno a Dante, ma non me l'ero preparato, mi viene così d'impeto. Se oggi migliaia di persone in varie città d'Italia assistono ancora oggi alla lettura di Dante fatta da Sermonti o da Benigni, in lingua italiana, come lo vogliamo considerare questo fenomeno? Un fenomeno di moda, ma io direi di un riconoscimento di identità almeno centrata su questo punto, la lingua che è diventata finalmente quella di tutti gli italiani. Bene, almeno viva la lingua, abbiamo almeno quello, almeno un elemento di unità, di vincolo, di diciamo omogeneità, l'abbiamo trovata con Valeria Della Valle. Quindi le due ospiti, le due donne di questa puntata che danno così almeno una ventata di positività, non perché si debba per forza essere appunto positivi sull'identità italiana, su dove sta andando l'Italia, sul nostro carattere nazionale, ma insomma sicuramente diventa necessario anche riuscire a tirare fuori anche degli aspetti positivi, che sono appunto il percorso delle donne e la lingua. C'è Oliviero Bea che voleva intervenire prima della prossima pausa. Oliviero. Ma sì, anche perché io tra secolo, devo dire la verità, sono affascinato da quest'ultima lettura, che naturalmente poi condivido il fatto che si debbano vedere cose positive, non si deve vedere tutto nero, anche se fra poco gli scienziati ci spiegheranno che pessimismo e ottimismo dipendono da amigdala e non da altro, non dalla cultura, dalla cosa, dalla natura, ma dalla biochimica personale. Ma a prescindere da questi aspetti, io sono affascinato e trasecolato. Ah, quindi sarebbe la lingua, sarebbe Dante, l'unità nazionale in un paese in cui un italiano su tre, i dati di De Mauro devono essere conosciuti da chi fa questo mestiere, del ramo, un italiano su tre non legge, non capisce bene la frase il gatto miagola perché vuole il latte, e non riesce a concatenare il che il gatto miagoli per il motivo per cui, il motivo per cui è un italiano su tre, dice Oliviero Bea, possibile? Ma io non lo so, ci sono dei dati mostruosi su questo. E chi di mestiere fa il linguista dice che è la lingua l'unità nazionale. Io sono affascinato, devo dire la verità, io sono un ignobile tuttologo, per carità di Dio, però questi dati non sono miei, sono di De Mauro, e De Mauro non fa il macellaio, e sono dati condivisi di società internazionali europee che hanno fatto questa ricerca su varie nazioni europee, non solo sull'Italia. L'Italia è il paese con l'analfabetismo di ritorno, sia umanistico che scientifico, perché non sanno fare le operazioni a due cifre, e si rivolgono due italiani su tre, ed è affascinante anche questo dato. Poi si rivolgono alle tecnologie, però non sanno fare le operazioni a mente a due cifre. Questo è il paese, e mi sento dire che Dante, letto da Benigno, da Sermonti, che io adoro naturalmente, sono una forma di identità nazionale. Ragazzi, evviva! Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato e morto qua, nato nel paese delle mezze Siamo sempre qui, non ci sono più le mezze stagioni, puntata speciale, puntata monografica, Roberta Giordano con voi in questa ultima parte della trasmissione. Cercherò di essere più veloce e sintetica e vi ricordo che appunto come ospiti abbiamo Valeria Della Valle, docente di linguistica italiana all'Università Sapienza di Roma, c'è Carmen Leccardi, docente di sociologia della cultura dell'Università di Milano Bicocca, Luca Ricolfi, sociologo, saggista che insegna analisi dei dati all'Università di Torino, Aldo Cazzullo, inviato speciale del Corriere della Sera che però ci ha lasciati perché appunto era molto lontano all'estero, Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, Oliviero Bea, giornalista e scrittore. Sarei voluta andare su altri aspetti, per esempio su alcuni spunti che dà anche per esempio l'ultimo libro di Beppe Severgnini, La pancia degli italiani, però devo ridare sinteticamente a Valeria Della Valle possibilità di rispondere a Oliviero Bea che si diceva trasecolato del fatto certo, la lingua italiana potesse essere... Lo immaginavo, ma del resto ovviamente disponiamo dei dati, quelli che usa De Mauro, quelli che leggiamo tutti, ma allora volendone vedere altri, l'indagine Istat del 2006 riporta e certifica il fatto che il 90% della popolazione sapeva esprimersi nel 2006, speriamo che oggi la situazione non sia né migliorata né peggiorata, speriamo migliorata, sa esprimersi in lingua italiana, così come il 60% della popolazione ha conservato accanto alla lingua nazionale anche l'uso del dialetto. Allora, se è vero, e certamente non avrei portato quell'esempio che ha portato Bea, ma che ben conosco, ecco, però io guardo i dati generali che sono quelli più confortanti. Perché dico che sono più confortanti sinteticamente? Ma perché siamo arrivati, mai prima era successo che un numero così alto di italiani condividessero la stessa lingua, cioè la lingua nazionale. È chiaro che poi all'interno di questa grande conquista ci saranno e ci sono delle sacche purtroppo di analfabetismo, ma ecco che torniamo allora al discorso originario, dove sono in Italia ci sono tutta una serie di fragilità, a cominciare da quelle della scuola. Ci lamentiamo tutti del fatto che i giovani non sappiano più né parlare né scrivere, no? Cosa che si sente ripetere continuamente. Beh, se la scuola non investe nel settore non della letteratura ma dello studio della lingua italiana, mi sembra difficile che si possa conquistare un miglioramento nell'apprendimento e nell'uso della lingua italiana. Ecco. Luca Ricolfi, Luca, ne hai sentite tante finora, tra l'altro anche Giuseppe Roma che diceva, direttore generale del Censis, che l'Italia sta franando, che l'identità in realtà si sta perdendo, si sta sgretolando, Oliviero Bea che parla di un paese culturalmente regredito, senza memoria. Prima avevo citato Eugenio Scalfari, ma ritorno per esempio a uno spunto che dà anche l'ultimo libro, La pancia degli italiani di Beppe Severgnini, che anche lui a sua volta, come ha fatto Scalfari in quell'editoriale che citavo, racconta gli italiani un po' attraverso l'epopea berlusconiana, no? E dice Berlusconi ha questa longevità politica e questo successo perché rappresenta gli italiani e dice vuole bene ai figli, parla della mamma, capisce di calcio, sa fare i soldi, detesta le regole, dice le parolacce e frequenta copiosamente le donne e dice... Gli italiani tra l'altro sono realisti, prima di scegliere ciò che ritengono giusto prendono quello che sembra utile e ancora la coerenza tra dichiarazioni e comportamenti non è una qualità che pretendiamo dai nostri leader. E un'altra cosa che dice che mi ha colpito è che l'Italia è una nazione che per evitare delusioni non si fa illusioni. Che dici Luca? Ma io dico che sai, a questi livelli di generalità affermazioni così perentorie sono sempre plausibili a prima vista e poi bisogna vedere cosa significano esattamente. Io sul discorso degli italiani che amano non illudersi penso che sia giusto come carattere, proprio come aspetto del carattere nazionale, cioè noi siamo un popolo fondamentalmente scettico anche perché abbiamo avuto dei lunghi periodi di dominazione straniera e abbiamo avuto una classe politica che ci ha sistematicamente traditi e che probabilmente è anche espressione di quello che siamo, perché come diceva Bobbio, ognuno ha i dirigenti che si merita, la classe politica che si merita, quindi questo è vero che c'è questo scetticismo di fondo, però se mi permetti io vorrei dire una cosa sulle diagnosi ottimistiche che ho sentito. Sì. Io mi rendo conto, perché è un fenomeno molto comune nell'università, che uno si innamora del suo oggetto di studio, quindi se studi il Triveneto trovi che il nord-est è meraviglioso, se studi le donne sono protagoniste, se studi la lingua è la nostra identità nazionale, eccetera. Però se guardiamo le cose in modo non da studiosi, ma proprio con il senso comune di cui tutti dovremmo essere dotati, ha ragione Bea, assolutamente ragione Bea, perché parliamo intanto delle donne. Ci sarà pure il machismo di ritorno, ma non mi verrete raccontare che tutte queste ragazze che appena sono un po' carine vogliono fare Miss Italia, la velina, andare al Grande Fratello, eccetera, dipende dal machismo di ritorno. Questo è un modello culturale che si è imposto e che una parte della popolazione femminile ha assorbito. Senti, ma un modello culturale che appunto corrisponde a un machismo di ritorno da dove viene, secondo te? Ma no, viene da quello che dice Scalfari, cioè 30 anni di diseducazione di massa, diceva. Producono anche questo, e viene anche da quello che dice il Carmen Leccardi, giustamente, cioè l'emancipazione è stata fino a un certo punto una cosa bellissima, una grande conquista, eccetera. Poi è diventato invece il fatto che non ci sono limiti, cioè è stata portata a un livello in cui, per fortuna per una minoranza di ragazze, degenera, però non è una minoranza di una ragazza su mille, è un fenomeno molto diffuso, a cui fa da contraltare, per fortuna, quello che noi osserviamo all'università, e cioè che le ragazze sono più preparate, più in gamba, più volonterose, più impegnate, e anche si laureano di più, cioè su 100 laureati maschi ce ne sono 150 femmine, quindi c'è un processo c'è il protagonismo di cui parla Carmen Leccardi, però c'è anche questo aspetto che è molto preoccupante e che secondo me dipende non dal machismo di ritorno, ma dal fatto che le donne hanno assorbito un certo modello culturale. Per quanto riguarda la lingua, anche se poi, se prosegue Luca Ricolfi, il tetto di cristallo per quanto riguarda le professioni e il dare accesso alle donne a certi mondi solo a certi, diciamo, prezzi, forse, non so, diciamo una compresenza di fattori, no? Un'interazione. Ma c'è sempre una compresenza di fattori. Uno può vedere sempre le cose come in un prisma da 7-8 punti di vista. Il punto fondamentale è che se non ci fosse questo modello culturale, cioè se non ci fosse stato la distruzione del sentimento di pudore e di vergogna, questi comportamenti non ci sarebbero, perché quello che colpisce a me, anche pensando agli scandali politici eccetera, ne abbiamo visti tanti in questi mesi, è non il fatto che ci siano degli scandali, ma che non sono scandali, cioè è la sfrontatezza, cioè noi abitiamo in un mondo in cui anche le persone normali sono fondamentalmente sfrontate. Allora questo modello culturale si è imposto ai maschi, alle femmine, e nelle femmine produce questi fenomeni che noi troviamo aberranti, Luca, ma che ci sono. Luca, io intanto vorrei preparare negli ultimi 3 minuti che restano Carmen Leccardi, Giuseppe Roma, Oliviero Bea, Valeria Della Valle, proprio a pochi secondi ciascuno di conclusione, perché mi dicono che purtroppo l'argomento è enorme naturalmente, ma il tempo sta correndo. Quindi Luca, perdonami, vorrei Giuseppe Roma proprio una fottina piccola per dire insomma dove stiamo andando. Quindi parlavi di un'identità che frana in un minuto, se riesci, Giuseppe. Io penso che stiamo andando certamente, non sappiamo dove stiamo andando, perché siamo in una fase di passaggio. È chiaro che l'ottimismo ci dovrebbe voler dire che siamo arrivati a un punto così basso che ci dovrebbe essere un rimbalzo, però questo non è detto, e quindi io direi che fra ottimismo e pessimismo dovremmo passare all'attivismo, ecco. Cioè parlare un po' meno, non perché parlare faccia male, ma perché noi siamo tutti poi presi dalla dimensione mediatica, quindi parliamo delle donne e parliamo solo delle veline, ma il problema delle donne sono anche molto più ampi, pensiamo alla partecipazione al lavoro, pensiamo anche a un certo aggressività maschile, anche di tipo fisico nei confronti delle donne, quindi le tematiche sono sempre molto ampie, quindi dovremmo cercare di non ridurre soltanto a slogan e riprendere un attivismo in cui la responsabilità è di tutti, e la responsabilità degli italiani credo si farà sentire in maniera positiva nei prossimi mesi, perché sennò saremo un paese destinato all'abbandono totale. Carmen Leccardi, Oliviero Bea, Valeria Della Valle, abbiamo proprio 30 secondi ciascuno. Oliviero, ti prego. Allora, con una formula, bisogna tornare avanti, bisogna recuperare un sacco di cose guardando in avanti e con responsabilità, cercando di rifondare la classe dirigente e cercando di salvare quello che c'è di buono e ancora c'è alla base, quello che ancora non sono stati capaci di distruggere. Valeria Della Valle. Ecco, mi associo stranamente, perché quello che non sono stati capaci di distruggere dal mio punto di vista è la lingua. Naturalmente dobbiamo impegnarci tutti a far sì che non venga distrutta, ma siccome ha superato oramai un millennio e più di vita, io credo che non ci riuscirà nessuno, neppure una politica come questa. Carmen Leccardi, un secondo, tre secondi. Sì, guarda, io credo che nonostante questo terrificante immaginario culturale degli ultimi vent'anni che ha cercato di distruggere l'apertura verso il futuro e il protagonismo delle donne, io sono convinta che la grande maggioranza delle giovani donne resiste, difende un'identità che vede proiettata verso l'Europa e che vede in termini positivi. Grazie anche a Carmen Leccardi, mi sa che dovremo tornare per forza sull'argomento. Grazie anche a Giuseppe Roma, Oliviero Bea, Valeria Della Valle, Luca Ricolfi, Aldo Cazzullo, da Roberta Giordano. Appuntamento il prossimo sabato. Ci auguriamo che questi 150 anni saranno celebrati con tutto il rispetto e l'intensità e anche con l'attivismo che dagli ospiti è venuto come augurio. Da Roberta Giordano intanto, sereni orizzonti a tutti.